24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Buongiorno, oggi pomeriggio si apre il tavolo di discussione sull'Electrolux, la multinazionale svedese che vuole delocalizzare in Polonia i 4 stabilimenti italiani. Insomma, l'Electrolux dice o riduzione degli stipendi o si chiude. Presidente Vendola, buongiorno. Buongiorno. Ecco, si aspetta qualcosa di concreto dall'incontro di oggi pomeriggio? Ma io penso che l'atteggiamento del governo debba essere abbastanza duro. Forse bisogna uscire da uno stile un po' notarile. Il governo cosa deve fare? Il governo ha una responsabilità generale, che è quella di dover ricostruire il profilo di una politica industriale. Ok, ha perso troppo tempo, diciamo, ha perso troppo tempo. In cui da decenni in realtà si immagina che la politica industriale debba essere una competenza del sistema d'impresa. Il pubblico può parlare, il pubblico può orientare i finanziamenti nei confronti dell'industria, per esempio a quei processi di innovazione che possono rappresentare il vantaggio competitivo che l'Italia insegue a volte un po' con affanno. Presidente, parliamo di questo pomeriggio. Lei dice il governo è in ritardo, se ho capito bene. Ha perso troppo tempo. Cosa deve fare? Si deve intanto dimettere il ministro Zanonato, come chiede la Serracchiani? E che cosa deve concretamente fare, al di là del quadro generale che lei stava facendo giustamente? Bisogna mettere sul tavolo una proposta alternativa che riguardi come la Electrolux può guadagnare effettivamente, diciamo, quel vantaggio che ha perduto. E ha un'idea lei? Ha un'idea? È frutto di una concorrenza. Guardi Minoli, se non si mette a fuoco esattamente la natura dei problemi, certo, se non si capisce che o si abbatte il costo del lavoro oppure si rende il prodotto più competitivo, che al di là di questa, diciamo, alternativa non c'è nient'altro da fare. Ma se si accetta il ricatto della Electrolux, bisogna sapere che si entra in una girandola che non finisce mai, perché ovunque c'è sempre un costo del lavoro minore e quindi, diciamo, una competizione che morde per come è organizzato il mercato mondiale. Ecco, notizie, Presidente, che vengono da fonti sindacali polacche, parlano là dove dovrebbe essere delocalizzati gli stabilimenti italiani, dicono che invece in Polonia anche lì c'è rischio di chiusura per l'Electrolux perché i costi sono troppo alti e la concorrenza asiatica troppo forte e si vorrebbe delocalizzare in Cina, quindi noi dovremmo andare in Polonia e la Polonia va in Cina. Come si vede? È veramente l'effetto domino, cioè una modalità ricattatoria e che considera la forza lavoro soltanto come una variabile dipendente, diciamo, sì, delle ma dinamiche dei grandi protagonisti. Ma sul piano globale come ci si difende? Il local e global, come fa il local a difendersi da questa politica globale? Intanto se il local, l'Italia, oppure il local Polonia, è collocato in un quadro che chiamiamo Unione Europea, la scoperta che nell'Unione Europea ci possa essere una competizione interna selvaggia perché fondata sul mettere in competizione lavoratori di una parte e lavoratori dell'altra. E quindi l'Europa deve intervenire lei? Forse l'Unione Europea dovrebbe capire che non esiste l'Europa se non esiste l'unificazione del mercato del lavoro. Senta, Presidente, il Serra, il finanziere vicino a Renzi, intanto ricordo 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS, dicevo, il finanziere Serra vicino a Renzi in un tweet ieri ha detto Electrolux prova a salvare lavoro e aziende con taglio dei salari oppure chiude come altre 300.000 aziende e aggiunge disoccupazione. Questo è il principio di realtà. Meglio fabbrica chiusa o dipendenti meno pagati? No, questo non è il principio di realtà. È proprio io quello che rifiuto è questa alternativa. Non è possibile che l'alternativa sia tra lo schiavismo e morire di fame. perché l'idea che un lavoratore in Italia possa guadagnare, diciamo, 800 euro al mese, è l'idea che il lavoro non viene remunerato, che il reddito e il salario è quasi al di sotto di quello che dovrebbe essere l'indennità di povertà. Questa idea è inaccettabile perché fa male all'economia, fa male alle imprese. Senta, le imprese devono poter essere competitive perché hanno investito sull'innovazione di processi. D'accordo, lei ha detto comunque con chiarezza, ha detto l'Europa si deve difendere unita e non ci può essere competizione all'interno dell'Europa. Guardi, a proposito, scusi perché non è che abbiamo ore, a proposito di Renzi, no? Abbiamo citato il Serra, il finanziere vicino a lui. Al vostro congresso è stato fischiato il suo rappresentante. Avreste fischiato anche lui se fosse venuto? O avete fischiato perché non è venuto? Guardi, qualche fischio e qualche battuta ironica non sono esattamente un atteggiamento incomprensibile in un momento in cui il conflitto con il PD di Renzi è molto acuto. Tuttavia si viene nei luoghi della discussione, soprattutto quando c'è dissenso e divergenza. Quindi vi aspettate che venisse? Mi sarei battuto perché Renzi fosse accolto diciamo con la massima attenzione e il massimo rispetto. Devo dire che i fischi al suo rappresentante erano anche, fischiavano anche il fatto che non era venuto. Ecco, senta, ma lei l'ho incontrato comunque recentemente. Siete in disaccordo su tutto oppure no? Ma a me piace Renzi quando si propone come, diciamo, il principio di un cambiamento reale, quando incarna questa domanda anche radicale di voltar pagina che c'è oggi in Italia. Non mi piace quando pensa che il cambiamento possa cominciare dallo stesso punto in cui l'Italia è precipitata. Senta, ma questo accordo negli ultimi vent'anni, cioè dall'abbraccio con Berlusconi. Cioè, quindi l'accordo con Berlusconi e la legge che hanno fatto, insomma, che propongono insieme, a lei non piace? Ma a me non piace intanto che si sia fatto il patto con Berlusconi, perché Renzi è il capo dell'opposizione. Renzi aveva la possibilità, di finito il giro di consultazioni, di presentare a tutta la scena politica italiana una proposta, non di presentare il patto. Il patto con Berlusconi è ciò che io considero lo scandalo. È il contenuto del patto, è il contenuto del patto, quel tipo di proposta di legge elettorale le va bene oppure anche lei vuole le preferenze? No, a me va male innanzitutto perché in quel progetto di riforma non vi è il tema cruciale del conflitto di interessi. Renzi non può diciamo voler rottamare la vecchia nomenclatura del PD perché ha concesso troppo al Caimano, perché non ha affrontato la questione del conflitto di interessi, e lui parte esattamente ne ha parlato Letta del conflitto, e ha fatto bene Letta, non a caso un uomo, quindi meglio Letta di Renzi, il ministro Delrio ha detto non è il momento di parlare di conflitto di interessi. Quindi meglio Letta di Renzi sulla legge elettorale, secondo lei? Meglio discutere del merito dei problemi. Vabbè, però meglio uno dell'altro. Sì, in questo caso meglio Letta di Renzi. In questo caso il tema del conflitto di interessi per me è il tema della ferita aperta. Quindi ho capito, ma voglio dire, quindi meglio la proposta di Letta di quella di Renzi? No, parlo soltanto di questo. Sì, sull'aspetto del conflitto. Senta, c'è Mario Secchi che le vuol fare una domanda, Presidente. Prego. Mario. Buongiorno, Vendola. Buongiorno, direttore. Domanda secca. Ma non era meglio far entrare Renzi al governo a questo punto, oppure, vista diciamo l'immobilismo un po' delle decisioni, andare al voto? Ma come sa benissimo Mario Secchi, io penso che l'Italia da tanto tempo è prigioniera di una demonizzazione del voto che io non riesco a capire. In questo momento io credo che il governo delle piccole e larghe intese rappresenti la risposta sbagliata. D'accordo. Alla crisi sociale, e quindi, economica, democratica. E quindi meglio elezioni? Ma io penso che il rischio sì o no? Mi dica sì o no? io penso che ci saranno, che rischiamo di precipitare nelle elezioni. Personalmente non ho paura, è meglio la chiarezza della confessione. Allora, Vendola, meglio elezioni. Pietrangelo Buttafuoco, una domanda anche lui. Buongiorno Presidente Vendola. Buongiorno Buttafuoco. Vorrei cogliere insieme a lei una contraddizione. Tutti noi, a maggior ragione noi cronisti, conosciamo la sua esperienza politica di governatore, conosciamo anche quello che lei ha realizzato in Puglia. Io voglio aggiungere un elemento: gran parte dell'elettorato non ha scelto su di lei una posizione ideologica, tant'è vero che grande parte dell'area moderata si è riconosciuta nella sua attività di governo. Però le voglio dire questo: com'è possibile e come spiega che tutti i rivoluzionari in Italia siano stati un fallimento? C'è l'imbarazzante fallimento di Crocetta in Sicilia, l'imbarazzante fallimento di De Magistris a Napoli, l'imbarazzante fallimento di Doria. Che cosa non hanno fatto tutti questi rispetto a quello che ha fatto lei in Puglia? Ma io la ringrazio. Bella domanda. C'è un giudizio positivo sulla mia esperienza di governo, che anche tante contraddizioni, tanti problemi, e credo che c'è un giudizio ingeneroso su altre esperienze di governo. In particolar modo Marco Doria sta gestendo una capitale di contraddizioni come Genova, un luogo fragile, delicato, in cui esplosa anche la povertà. Scusi se interrompo. Vorrei dire questo: lo zapaterismo è un fallimento per la sinistra in generale? Questa è la domanda. Ma lo zapaterismo è anche, questa è una metafora abbastanza suggestiva, però per me poco comprensibile applicata alle esperienze di governo. Io vedo come Milano si sta sforzando, diciamo, di uscire fuori dal provincialismo in cui era stata precipitata. Vedo che c'è una difficoltà, però, se mi permette, sì, di tutta la democrazia, diciamo, del territorio. Le regioni e i comuni ovunque sono sull'orlo di un precipizio, perché sono strozzate dai vincoli del patto di stabilità. Presidente, le faccio un'ultima domanda, la ringrazio di essere stato con noi. Ma anche Celentano è d'accordo sull'accordo fra Berlusconi e Renzi? Non le dice niente? No, non ho capito. È d'accordo. Celentano dice: sono d'accordo. Guardi, una battuta finale. Sì, ma mi chiede una battuta sulle opinioni di Celentano. No. Francamente, insomma, un passaggio, se posso dirlo, capisco che non è un tweet, che non è una battuta. Ma un passaggio come quello che riguarda il sistema elettorale deve avere come oggetto di osservazione, oggetto delicato, oggetto incandescente, il fatto che i cittadini non vanno a votare. Insomma, è in disaccordo. D'accordo, Celentano ha detto una sciocchezza, secondo lei. Va bene. No, non dirò mai che Celentano ha detto una sciocchezza. Okay. Ti dirò che non sono d'accordo con lui. Grazie, Presidente. Alla prossima. Grazie a voi. Grazie, salve. Grazie. Il figlio cosa? Si vede così tanto che sono la madre di un... Si vede tantissimo. Non potrai essere qui in visita. No. Chi viene in visita con la scusa di fumare se ne va. Tu è da tanto che vieni qui? 8 mesi. Mio figlio è in coma. Quando si sveglierà recupererà tutto. Valentina invece quando si sveglierà non recupererà tutto. Non la sua gamba. Ha un tumore... Un tumore alla tibia. Dai, coraggio. Vedrai. Tu avrai il modo di fare una vita normale. Davvero? Che vale una vita normale, già ce l'aveva. Dottore, per favore, ci dica qualcosa. L'intervento è riuscito. Valentino sta bene. Lo terremo adesso per un po' sotto osservazione e dopo lo riaccompagneremo in stanza. Senta, il tumore siete riusciti a toglierlo? Completamente. Grazie, dottore. Grazie di cuore. Grazie. Di niente. Era un breve estratto di Braccialetti Rossi, la nuova fiction di Rai 1, che entra nella quotidianità di giovani, di bambini malati, e oggi una ricerca ci dice che 8 italiani sono fra i 400 scienziati più influenti al mondo. Ecco, nella lotta al cancro abbiamo ripescato una battuta, una frase del premio Nobel della medicina Dulbecco dell'89. Nell'80 lei era molto ottimista sulla possibilità di sconfiggerlo. E oggi? Ma sono sempre ottimista, però l'unica cosa e come ho sempre detto effettivamente, è che non si può dire quando. Se mi si dice ce la faremo, io dico sono convinto che ce la faremo. Però quando non si può dire. Ecco, ma su cosa basa questa convinzione? Così sul, una fede nella scienza? No, lo baso sul continuo progresso. Perché ogni anno io posso vedere una differenza nello stato delle nostre conoscenze. Per esempio, negli ultimi 10 anni ci sono state delle scoperte fantastiche. Naturalmente queste il pubblico magari non le conosce e anche insomma non hanno risultati pratici al momento. Ma per esempio tutta la conoscenza dei geni del cancro, questo è stato un risultato veramente favoloso. Ecco, per parlare di lotta al cancro e di nuove cure, partiamo da un luogo insolito, molto insolito, il CERN di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Che c'entra con la lotta al cancro? Ecco, dottoressa Paola Catapano, giornalista scientifica, responsabile della comunicazione del CERN, che rapporto c'è tra la ricerca fisica, questa cosa assolutamente che sembra lontana dalla vita che fate voi, e la lotta al cancro? Buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi invitata. Allora, come diceva Dulbecco, il pubblico non sa tante cose sulla lotta al cancro, su fisica e medicina. Fisica e medicina è un connubio che va avanti da sempre, diciamo, da quando la fisica è diventata una disciplina importante. Da Marie Curie fino ad LHC le scoperte che hanno aiutato la ricerca sul cancro sono tantissime. Marie Curie stessa si aggirava per i campi di battaglia, ora non per il cancro ma per la medicina, si aggirava per i campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale con una specie di carrozzina con l'apparato a raggi X del suo amico e collega Röntgen per fare le prime radiografie ai caduti, ai feriti e identificare i proiettili e quindi salvargli la vita. Ora, per arrivare al CERN... Ecco, ma voi in concreto al CERN che cosa avete inventato che oggi serve per diagnosticare e curare i tumori? La PET, tutti quelli che sono stati in contatto con malati di tumori sicuramente sanno cos'è la PET, vuol dire Positron Emission Tomography, sono dei fasci di antimateria che riescono a fare delle immagini molto più chiare del corpo in 3 dimensioni e quindi identificare molto meglio, misurare le masse tumorali. La PET è nata qui negli anni 70, in una collaborazione con l'ospedale di Ginevra. Le prime PET sono state fatte sui topi in un laboratorio proprio dietro il mio ufficio. E quindi queste ricerche diventano strumenti concreti e lo diventano come lo sono diventati a Pavia nelle mani del professor Ugo Amaldi, fisico, che cura i tumori con la terapia adronica. Professor Amaldi, ci spiega che cos'è la terapia adronica? In Italia il 40% delle persone che guariscono di un tumore hanno subito un trattamento con i raggi X. È quindi una terapia molto importante. Però? Purtroppo ci sono degli inconvenienti. Il primo è che vicino al tumore c'è un organo sano che sì, non può essere irradiato senza che ci sia subire dei danni negativa. Allora è necessario dare una dose al tumore più piccola di quella che il tumore avrebbe bisogno di ottenere. Certo. Secondo punto, che ci sono un circa 10% dei tumori che sono radioresistenti, cioè sono dei tumori che resistono ai raggi X. E la terapia adronica invece che cosa fa? La terapia adronica usa delle particelle che noi chiamiamo appunto adroni e i nuclei dell'atomo di carbonio fatti di 6 protoni e 6 neutroni che quando entrano nel corpo del paziente, diversamente dai raggi X, colpiscono quello che noi chiamiamo il bersaglio tumorale. Lì lasciano il massimo della loro energia e quindi sono adatti a curare i tumori che sono vicini agli organi critici. Ma in più gli ioni carbonio possono uccidere anche le cellule che sono radioresistenti. Sono e radioresistenti. Questo è il vantaggio della terapia adronica rispetto a quella dei raggi X. Esattamente. Professore, il centro di Pavia possiede un sincrotone di 25 metri di diametro. È una versione più piccola di quella che c'è al CERN. Questa macchina è una macchina che è simile, come lei dice giustamente, alle accelerazioni che noi abbiamo al CERN dove io lavoro, ma che sono in quel caso 27 chilometri di lunghezza, certo, e questo sono 20... soltanto 70 metri di lunghezza, ma i principi sono esattamente gli stessi e le complicazioni sono le stesse. Ecco, come va la scienza d'Italia, professore? Se noi pigliamo l'1% dei lavori migliori al mondo di scienza, cioè vuol dire questi si giudicano sulla base delle citazioni che ottengano, certo, gli italiani nell'1% dei lavori sono meglio di tutti gli altri paesi a parità di numero di ricercatori, tranne che degli inglesi. Noi battiamo gli americani, i francesi, i tedeschi per numero di lavori che sono al top 1% delle citazioni, se lo si normalizza, se lo si divide per il numero di ricercatori. Beh, il nostro ottimo problema è che abbiamo pochi ricercatori, ne abbiamo 70.000 e in Francia ce ne sono quasi tre volte di più. Se noi investissimo di più e avessimo più ricercatori, saremmo il meglio al mondo, meglio degli Stati Uniti, della Francia e della Germania. Quindi abbiamo le scuole, non abbiamo i finanziamenti. Grazie professore. A lei. Dottoressa Catapano, ecco, voi adesso abbiamo capito che cosa capita nei vostri studi, nelle vostre ricerche che sembrano così lontane, quando poi invece si incarnano nella realtà. Applicazioni dirette. Naturalmente, voi fate ricerca pura, ma per esempio da questo famoso bosone di Higgs, che è il vostro, il vostro fiore all'occhiello attuale, il bosone di Dio, cosa ci possiamo aspettare? Questa è una bellissima domanda, nessuno può rispondere, la stessa domanda che fece la regina Vittoria a Thomson nel 1899 quando scoprì l'elettrone, la prima delle particelle elementari, e Thomson disse: io non so cosa lei ci potrà fare con l'elettrone, sicuramente troverà un modo per far pagare le tasse ai cittadini. E infatti non meno di 10-15 anni dopo con l'elettrone si illuminavano tutte le case, chiaramente le tasse si pagano sull'elettricità, quindi ci aveva visto lontano Thomson. Col bosone di Higgs per il momento stiamo ancora studiando per capire come è fatto veramente, e quindi è una particella appena nata. In realtà però qui ci sono tante ricerche che cercano di capire, oltre agli ioni di carbonio e ai protoni che si usano attualmente per distruggere i tumori in maniera mirata, come diceva il professor Amaldi, certo, sono tantissime le particelle dello zoo, delle particelle elementari, e siccome le cellule tumorali sono molto diverse le une dalle altre, c'è una sperimentazione in corso per capire quali particelle per quali cellule tumorali, però non è l'unica. Una ricerca legata al bosone di Higgs, nel senso che c'è una tecnologia in uno dei rivelatori che ha scoperto il bosone, CMS, sono i silici, cristalli di silicio. Questa tecnologia adesso nell'ospedale di Marsiglia la stanno utilizzando, sempre una ricerca fatta in comune con noi, per migliorare le mammografie, il potere diagnostico delle mammografie, che attualmente è molto basso e insoddisfacente. Ecco, grazie a questi cristalli, l'esperimento si chiama Crystal Clear, si riuscirà ad avere un potere predittivo di un tumore al seno in fase molto molto precoce, che è una cosa determinante per poi salvare la persona. Vabbè, quindi importante ed è una speranza per il futuro. Grazie. Mix 24. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Allora Pietrangelo, intanto finalmente tornato fra di noi, ricordo che la notizia in 3D naturalmente era curata da Sara Tardelli. Allora Pietrangelo, questa canzone? Trattative su sbarramento, collegi, premi di maggioranza, il gatto e la volpe al lavoro. Ho recuperato questa bellissima canzone di Edoardo Bennato per descrivere l'attività frenetica di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, gatto e volpe per l'appunto, che mi fanno riportare ad una massima imparata anni e anni fa nella mia Sicilia, ovvero fecero pace i cani e i lupi, povere pecore sventurate capre. Non è che fanno una bella fine poi il gatto e la volpe in realtà, insomma. Vabbè, comunque. Allora, cosa bolle in pentola, Mario? Allora, si parla di soldi. Soldi che gioia, senza problemi vivrei. Bello questo pezzo di Renato Zero, eh? Molto. Allora, banche centrali, signori, è la settimana delle banche centrali. Ieri notte la Banca Centrale Turca, come avevamo preannunciato ieri, ha tenuto una riunione d'emergenza e ha alzato a un livello altissimo, al di sopra delle aspettative degli analisti, i tassi di interesse di riferimento. Riuscirà a tenere in piedi la lira turca? Vedremo. Vedremo e da cosa dipende. Dalla credibilità che hanno queste mosse sui mercati. C'è stata una battaglia durissima tra il premier Erdogan, la banca centrale e quelle che Erdogan chiama le lobby economiche, che speculano secondo lui sulla lira. In realtà il governo turco ha un problema di deficit molto grande, anche politico, no, mi pare. Beh, poi ha dei grossi problemi politici, come abbiamo visto. C'è stata anche un'operazione sulla magistratura, con lo spostamento di alcuni magistrati da parte del governo. Insomma, è un paese che attraversa un momento di difficoltà. Naturalmente noi dobbiamo sperare che vada meglio, perché è un partner commerciale importante per l'Italia. La stessa cosa ha fatto l'India. Tutti si aspettano una mossa anche dal Sudafrica. Sono tutti paesi emergenti, o comunque molto emersi in realtà, che influenzano poi i mercati e la crescita mondiale. E infine si attende oggi l'ultimo meeting della Fed nell'era Bernanke, che dovrebbe tagliare di altri 10 miliardi, pare, il programma di stimoli economici sui titoli americani. Vediamo che cosa succede, però è chiaro che c'è una grandissima battaglia delle monete, e quindi è molto interessante. Naturalmente in questo caso bisogna prendere i soldi. Come? Sì, ma qui cosa ci leggi? Tiro o giro? Tiro, ma che significa agite? Agite, c'è scritto agite con calma. Mettete 15.000 dollari sul banco e agite con calma. Ah, ho capito, è una rapina. Sì, signore. Era prendi i soldi e scappa, Woody Allen, solo che così non si possono prendere, né facendo quelle vere, naturalmente, né quelle un po' ridicole, e bisogna trovare soldi. Obama cerca soldi. Beh, Obama anche fa delle mosse a sorpresa. Non so se a Pietrangelo piace quello che ha fatto. Questo aumentare, aumentare le paghe federali. Mi ha incuriosito molto la domanda che si è posta Obama: dove è finito il sogno americano? E proprio oggi ho letto un'interessantissima pagina di Rampini su Repubblica, dove a dare la risposta a questa formulata domanda, a questa domanda di Obama è Amy Chua, cioè l'autrice del celebre libro sulle mamme tigri, che adesso ha riproposto un saggio dove descrive l'evoluzione della società americana affidata alle nuove etnie che sono arrivate al potere, che in realtà sono le più antiche, sono le comunità cinesi, le comunità iraniane, che mescolano tre elementi, tre ingredienti fondamentali per arrivare a guadagnare il successo, cioè il complesso di superiorità, l'insicurezza e lo spirito di sacrificio. Ed è il nuovo volto degli Stati Uniti d'America e contemporaneamente il nuovo volto del futuro. A che proposito di tutti. Spirito di sacrificio, segnale che la cosa più importante in realtà del discorso di Obama è il varo di un nuovo piano pensionistico per la middle class e i poveri, con diciamo versamenti obbligatori per 30 anni su un fondo che poi dovrebbe costituire quella che è una pensione dignitosa. Tieni presente che la maggior parte degli americani scoprono il welfare all'italiana? Sì, è una sorta di diciamo è un misto. D'altronde gli americani tutte queste tutele non le hanno, e anche per loro il mondo sta cambiando notevolmente. Quindi vediamo un po' cosa succederà. Salamino. Il salamino di oggi è dedicato ad un dettaglio. No, non è neppure un dettaglio, è qualcosa di più di un messaggio rilevatore, perché quando sparisce il patriarcato si scatena quella trasformazione che in un articolo molto interessante di Filippo Ceccarelli è svelato nel cerchio magico di Silvio, dove scoppia la guerra delle donne tra gelosia e post-politica, cioè che cosa è accaduto? Si è dimessa Nunzia De Girolamo e nelle sue dimissioni non c'è stata la difesa del suo nuovo partito, non c'è stata la difesa del governo, non c'è stata la difesa dei nuovi che aveva abbracciato, no. E quindi ha sentito il richiamo del vecchio, il richiamo della vecchia casa del padre, ma lì nella vecchia casa del padre a presidio c'è Francesca Pascale che ha detto no, e quindi nel cerchio magico tutte le donne hanno scatenato una guerra. Ad omaggio di ciò io ho ripescato un brano delizioso e non sto qui a spiegare chi è Lisistrata, peggio per chi non lo sa, mai di sabato, signora Lisistrata, con la voce di Mina accompagnata a quella di un'altra grande attrice, Bice Valori, peggio per chi non sa chi è Lisistrata. Prego. Per un uomo son l'età della... nella pienezza della sua maturità, mentre noi donne, chi lo sa per qual ragione, a 28 anni già ci chiamano tardone. Carino. E così anche per ricordare che esiste una solida tradizione nello spettacolo italiano, che lo spettacolo di rivista, lo spettacolo di varietà, la commedia musicale, quel tempio meraviglioso che fu il Teatro Sistina affidato a Garinei e Giovannini. Ne parleremo presto di Garinei e Giovannini, ma non... Milva, non sappiamo bene... In questa è che sono malandato nella voce, ho detto Milva, se sentito Mina, Milva con Vice Valori. Ma quando mai Mina ha recitato con Garinei e Giovannini? Vabbè, comunque Lisistrata era un personaggio di Aristofane. Ma io dicevo che nella lotta fra le donne del cerchio magico non si sa ancora cosa pensa Berlusconi, però, perché non si è espresso. Si confiderà, per adesso, si consulterà con Dudù. Può darsi, dove abbaia Dudù lui andrà. Diamo i numeri? Un po' di numeri. Vabbè, proviamo con i numeri. Insomma, c'è l'ultimo trimestre della crescita italiana, dove ancora non si sa. Arriveranno questi numeri? Intanto segnalo che c'è una battaglia politica in corso tra il Ministero dell'Economia, l'Istat, un pezzo del governo, l'opposizione che si farà sentire. È un numero che influenza ovviamente il sentiment politico. Non solo, c'è stata una nomina ai vertici dell'Istat, dopo che Giovannini è andato a fare il ministro, piuttosto travagliata, con Piercarlo Padoan, che alla fine ce l'ha fatta, ma in un primo tentativo non era andata bene. Attendiamo i numeri e le polemiche. Saranno di destra o di sinistra? Non lo so, sentite qui. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Grande Gaber, È la sinistra. Fare il bagno nella vasca è di destra, fare la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma Gaber, Gaber, la storia di Giorgio Gaber sarà la storia di Mix 24 raccontata a partire dalle 10. Mario? E io c'ho delle cose ancora belle, per esempio per il piacere anche sempre di Pietrangelo c'è un'era JAP che va avanti alla grande, e il governo giapponese ha fatto mettere nei libri di scuola che rivendica alcune isole contese tra la Cina e il sud della Corea. Sud Corea e Cina hanno risposto che ci saranno delle reazioni. È una guerra per ora sulla carta, ma quello che ha detto Shinzo Abe a Davos, e che abbiamo sentito ieri, non è di poco conto. Ecco, noi noi ci associamo a Domenico che dice bentornato Pietrangelo. Grazie. Ne abbiamo ricevuti. Volevo dire, non per scontentare il campo dei buoni, però anche l'attuale pontefice, noi siamo cattivisti, anche l'attuale pontefice Papa Francesco dice Malvinas e non dice Falkland, a proposito delle isole. Parliamo del Papa, allora. L'hai evocato. E se n'è andato contro la perfida Albiona. Rolling Stone ha fatto una copertina sul Papa, Superman, il Vaticano ritwitta, però visto che tutto è possibile possiamo chiudere con il Rolling, davvero. Yeah! Poi vi abito. Mix 24. Nulla di eccentrica, farfallina, è possibile, io non ci credo, non può essere, senti che abbiamo voce, è assolutamente impossibile. E allora, chi ha incastrato Roger Rabbit, voi direte, ma perché questi ragazzi qua stamattina hanno scelto Roger Rabbit? Perché ci sono grandi notizie dal Parlamento. Ogni tanto io mi diletto con queste curiosità. Alle 14, caro Giovanni, caro Pietrangelo, in Commissione Agricoltura c'è l'audizione degli allevatori di conigli. Senti Mario, ti volevo fare una domanda prima di sentire il professor Simonelli. Dice un nostro ascoltatore, che però non si firma, vabbè, per stavolta lo leggiamo. Perché non parla dell'IMU? Disse: se non passa la legge rimettono la tassa, tutti dicono, no? Non è vero, basta fare un nuovo decreto. È vero? Sì. Quindi non è detto? Non è detto, non è detto. È una drammatizzazione? Si può fare, dunque, in politica si può fare qualsiasi cosa. Cosa hai visto alla televisione ieri sera? Dov'era il canone? Non lo so dov'era il canone. Non c'era, perché, vabbè, perché leggevo. Pietrangelo viaggiava, immagino, più o meno, quindi canone qui non ce n'è in giro. E allora chiediamo al professor Simonelli. Simonelli, buongiorno. Sto canone dov'era? Vorrei rassicurare Buttafuoco. Io sono tra quelli che sanno chi è Lisistrata e potrei anche intrattenervi sull'etimologia del nome, però vado oltre. Grande. È come un accademico dei Lincei. Lo sa, professore, perché mi incaponisco su queste cose? Perché una volta, lei che è uno storico della televisione lo può confermare, il pubblico italiano, per quanto non fosse alfabetizzato secondo i codici del cretino di successo che adesso avanza, davanti a una battuta come una lacrima sul griso la capiva in tutto il territorio nazionale. Adesso sarebbe impossibile, con tutti sti laureati in scienze delle comunicazioni, non se ne può più. Questi lo adotto, chiamo i laureati in scienze della comunicazione. Gli rovina non il pane. Non se ne può più. Gli ruba il pane al povero professor allora, Simonelli. Perché il professore che c'entra con la comunicazione? La televisione. Tanto è vero che ieri sera io il canone l'ho ritrovato su Rai Premium, che trasmetteva la replica dell'ultima puntata della serie di spettacolo di Massimo Ranieri, Sogno e Son Desto, e l'ho riguardata con attenzione perché francamente bravo professore sera, a volte si guarda distrattamente, e ho trovato pienamente il canone, perché questo spettacolo, che è bellissimo, bellissima scenografia, bravissimi cantanti, bravissime e bellissime le ballerine, bravissimi gli ospiti, ci dice una cosa fondamentale: per contrastare il dominio del sabato sera, della televisione di Maria De Filippi, tra parentesi, una televisione, come direbbe Mughini, che io aborro, non si deve andare sullo stesso piano, ma si deve puntare sulla qualità. E c'è un pregiudizio: quando parliamo di canone si pensa sempre all'utilizzo del canone per scopi prettamente divulgativi, la cultura. Beh, no. Invece non è così. Non è così. Ieri il professor Doglio ce l'ha spiegato benissimo. Il canone può servire, anzi deve servire anche a fare un buon intrattenimento. Assolutamente. È quello che Massimo Ranieri ci ha spiegato. Si può mescolare Bennato e Neruda, Bennato per la gioia di Buttafuoco sempre e Palazzeschi, Shakespeare e Carosone, e non è detto che il pubblico scappi appena sente parlare di Shakespeare o di Carosone o di Neruda o di Palazzeschi. Il pubblico ha dimostrato come un bel quasi 20% che può apprezzare uno spettacolo di qualità in cui si parla di Shakespeare e di Carosone, e mi sembra un bellissimo risultato. Professore, lei ha visto per caso Pericolo Verticale? No. Non ha visto Pericolo Verticale? No. Mamma mia, come mai? Perché volevo invece parlarvi di un'altra cosa. No, professore, lei non guarda i programmi che piacciono ai giovani. Perché non lo sono e non voglio far finta di essere giovane. E Sara Tardelli, l'ha riconosciuta. Ma i studenti allora come fanno? E invece io ho visto una cosa che è sfuggita a tutti. Dica. Lunedì sera alle 18 c'era la celebrazione di Abbado alla Scala. Rai 5 l'ha trasmessa, l'eroica di Beethoven. Che cosa è successo ad un certo punto? Che una telecamera è partita dall'interno della Scala, suggestivamente vuoto, con Barenboim che cominciava a dirigere il testo musicale, ha fatto una carrellata uscendo dalla Scala ed è arrivata in piazza della Scala, dove ha trovato il muro dei 6-7 mila milanesi che si erano affollati davanti alla Scala. Allora io dico che quella inquadratura, quei 20 secondi, 25 secondi, quella carrellata basta da sola per pagare il canone. Beh, bene professore, lei non l'ha visto Pericolo Verticale, invece Sara Tardelli ha intervistato il regista e sentiamolo. Simone Gandolfo, regista di Pericolo Verticale. Innanzitutto voi dite che Pericolo Verticale è un action reality. Come è nata questa idea? Da un'esperienza personale. Io sono stato un giovane alpinista e ho avuto un brutto incidente in montagna. Quando ho cominciato a intraprendere la carriera di creatore e regista, mi è subito venuto in mente questo soggetto. Ne ho parlato con Luca Argentero, che è il produttore, nonché il conduttore. Le riprese, insomma, sono state abbastanza difficili, immagino. Quali tecniche di ripresa hai usato? Noi avevamo due cameraman professionisti e una guida alpina, a cui noi abbiamo fatto un corso di un mese come operatore, perché c'erano alcune condizioni estreme. In più utilizzavamo un buon numero di action camera sui caschi delle guide, un po' dappertutto. Le action camera sarebbero tipo le GoPro? Tipo le GoPro, esattamente, quelle. In più abbiamo fatto delle riprese con un marchingegno che si chiama Cineflex, con un altro elicottero, riprendendo l'elicottero che stava facendo gli interventi, e poi abbiamo girato immagini di paesaggio con telecamere più stupende, più cinematografiche. Quindi voi non vi siete mai trovati in una situazione di pericolo durante le riprese? Io personalmente mi sono trovato insieme a una squadra che è rimasta bloccata per il maltempo a 3500 metri e mi sono girato verso la guida alpina e ho detto adesso, e lui ha detto adesso, un passo dopo l'altro scendiamo. Quindi insomma ci sono state delle situazioni anche dure. Che cosa ti hanno insegnato le montagne? Che la montagna è viva, in fin dei conti è lei che decide, bisogna chiedere permesso, entrare in punta di piedi e capire quando non è il caso, insomma. Poi il mio consiglio personale è, se qualcuno vuole provare il brivido del ghiacciaio o delle vette, lo può fare avvalendosi dell'aiuto di professionisti esperti. Il grande Walter Bonatti diceva che le montagne hanno il valore degli uomini che le salgono. Che cosa accomuna allora gli alpinisti? In montagna, rispetto ad altri contesti, c'è una enorme percentuale di gente che è in contatto con l'assoluto, perché quando tu stai in mezzo a un ghiacciaio sta avvenendo il tramonto e sai che dovrai stare una notte lì e senti solo i rumori del ghiacciaio che si muove, perché il ghiaccio è vivo, insomma, rotola continuamente verso valle. Diciamo che è una buona connessione con chi ci ha creato. Poi qualcuno lo chiama Dio, qualcun altro lo chiama natura, c'è. Voi che insomma avete passato tanto tempo sulle montagne, ma come stanno? Stanno un po' affaticate, ecco, in un panorama incontaminato, cartacce, avanzi di cibo, scatolette, quello è proprio un gran peccato. Bisognerebbe tirargli le orecchie, chi lo fa. Grazie. Grazie a te. Ecco, oggi la storia a cura di Marina Milone, dopo il giornale radio, riguarda la vita e le opere di Giorgio Gaber.